uguali eppure diverse. Sotto le volte del portico del podestà, sovrastate da una loggia e ornate da eleganti fasce di bugnato, un tempo si radunavano i mercanti, gli artigiani e persino i notai, prima della costruzione del palazzo in cui esercitare la loro professione. Una particolarità che caratterizza il portico sono i rosoni che ornano il bugnato dei pilastri. Tante piccole formelle in arenaria, retaggio del lavoro di ristrutturazione voluto da Giovanni II Bentivoglio. Il loro numero risulta misterioso. C'è chi sostiene che siano 3.000, mentre secondo altri addirittura 12.000. Un articolo apparso nel 1927 su un fascicolo di una rivista del Comune di Bologna afferma che le formelle fossero circa 1.500. A un'occhiata disattenta sembrano raffigurare ori e rose del tutto simili, ma in realtà sono l'una diversa dall'altra. In alcune appaiono visi che si presume appartenessero ai mercanti del tempo. Forse si tratta di coloro che contribuirono con le loro donazioni a far erigere il porticato o che avevano lì le loro botteghe. Altre raffigurano figure di animali, altre di fiori e ce n'è una in particolare con una pannocchia di mais. Si presume che sia stata scolpita da un restauratore seicentesco, perché nel 400 il mais non era ancora stato importato dalle Americhe. Purtroppo, irrimediabilmente usurata dal tempo, una delle formelle più celebri mostrava un servitore nell'atto di trasportare il re Enzo in una grande botte. Una storia di cui avremo modo di riparlare. La formella in questione si trova al nono ordine del pilastro d'angolo situato a sinistra del Palazzo del Podestà, in direzione dell'attuale Palazzo Comunale. Ai primi del XX secolo, l'urbanista Lino Siginolfi ha creduto di individuare, tra gli altri, i volti del mercante Andrea Cenni, di Nicolosia Sanuti con la faccia protesa verso una conchiglia e del cambiavalute Tordino De Conti. Ma l'abito, la barba e la cravattina del Cenni, come ci fa notare Guido Zucchini nel suo libro La verità sui restauri bolognesi, riprendono piuttosto un'estetica ottocentesca, epoca in cui il porticato e le relative formelle fu restaurato. Lo stemma di Papa Pio IX spicca sulla formella posta in uno dei rosoni verso via Rizzoli. In un altro possiamo ammirare lo stellone d'Italia. Si dice che, tra tutte, soltanto due formelle siano identiche. Ed ecco la sfida. Riuscirete a trovarle? Gli